Canto quattordicesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto quattordicesimo. Chi è costui che il nostro monte cerchia, prima che morte gli abbia dato il volo, ed apre gli occhi a sua voglia e coperchia? Non so chi sia, ma so che non è solo. Dimandal tu che più gli t'avvicini, e dolcemente, sì che parli, accolo. Così due spirti, l'uno all'altro chini, ragionavan di me ivi e mandritta. Poi ferli visi, per dirmi supini. E disse l'uno: «O anima che fitta nel corpo ancora in ver lo ciel ten vai, per carità ne consola e ne ditta onde vieni e chi sei, che tu ne fai tanto maravigliar della tua grazia quanto vuol cosa che non fu più mai». Ed io: «Per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia. Di sovresso rechio questa persona. Dirvi chi sia saria parlare indarno, che il nome mio ancor molto non suona. Sebbene l'intendimento tuo accarno, con l'intelletto allora mi rispose quei che prima dicea, tu parli d'Arno». E l'altro disse lui: «Perché nascose questi il vocabol di quella riviera, pur com'uom fa dell'orribil cose?» E l'ombra, che di ciò dimandata era, si sdebitò così: «Non so, ma degno ben è che il nome di tal valle Pera, che dal principio suo, dov'è si pregno l'alpestro monte, onde tronco peloro, che in pochi luoghi passa oltre a quel segno, infin là ve si rende per ristoro di quel che il ciel della marina asciuga, ond'hanno i fiumi ciò che va con loro, virtù, così per nemica si fuga da tutti, come biscia, per sventura del luogo, o per mal uso che li fruga. Ond'hanno sì mutata lor natura gli abitator della misera valle, che par che Circe gli avesse in pastura. Tra brutti porci più degni di galle che d'altro cibo fatto in umano uso, dirizza prima il suo povero calle. Boto li trova poi venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa torce il muso. Vassi caggendo, e quanto ella più ingrossa, tanto più trova di can farsi lupi la maladetta e sventurata fossa. Discesa poi, per più pelaghi cupi, trova le volpi sì piene di froda, che non temono ingegno che le occupi. Né lascerò di dir perch'altri moda, e buon sarà costui s'ancor s'ammenta di ciò che vero spirito mi disnoda. Io veggio tuo nipote che diventa cacciator di quei lupi in sulla riva del fiero fiume, e tutti gli sgomenta. Vende la carne loro, essendo viva, poscia gli ancide come antica belva, molti di vita e sé di pregio priva. Sanguinoso esce della trista selva, lasciala tal che di qui a 1000 anni nello stato primaio non si rinselva. Come all'annunzio de futuri danni si turba il viso di colui ch'ascolta, da qualche parte il periglio l'assanni. Così vid'io l'altr'anima, che volta stava a udir turbarsi e farsi trista, poiché ebbe la parola a sé raccolta. Lo dir dell'una e dell'altra la vista mi fe voglioso di saper lor nomi, e dimanda ne fei con prieghi mista, perché lo spirito che di pria parlomi ricominciò: «Tu vuoi ch'io mi deduca nel fare a te ciò che tu far non vuomi? Ma da che Dio in te vuol che traluca, tanto sua grazia non ti sarò scarso. Però sappi che io son Guido del Duca. Fu il sangue mio d'invidia sì riarso, che se veduto avessi uom farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso. Di mia semenza cotal paglia mieto, o gente umana, perché poni il cuore l'ave mestier di consorto divieto? Questi è Rinier, quest'è il pregio e l'onore della casa da Calboli, ove nullo fatto s'ereda poi del suo valore, e non pur lo suo sangue fatto brullo tra il Po e il monte, la marina e il Reno, del ben richiesto al vero ed al trastullo, che dentro a questi termini è ripieno di venenosi sterpi, sì che tardi per coltivare ormai verrebber meno. Ov'è il buon Licio ed Arrigo Manardi, Pier Traversaro e Guido di Carpigna? Romagnuoli tornati in bastardi, quando in Bologna un fabbro si ralligna, quando in Faenza un merladin di fosco verga gentil di picciola gramigna, non ti maravigliar s'io piango tosco quando rimembro con Guido da Prata Ugolin d'Azzo, che vivette nosco, Federigo Tignoso e sua brigata, la casa traversare agli anastagi, e l'una gente e l'altra è diretata. Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi, che ne vogliava amore e cortesia, là dove i cuor son fatti sì malvagi. O Bretinoro, che non fuggi via, poiché gita se n'è la tua famiglia e molta gente per non esser ria, ben fa Bagnacaval che non rifiglia, e mal fa Castrocaro, e peggio conio, che di figliar tai conti più s'impiglia. Ben faranno i pagan, da che il demonio lor sen girà, ma non però che puro giammai rimanga d'essi testimonio. O Ugolin de Fantoli, sicuro è il nome tuo, da che più non s'aspetta chi farlo possa, tra l'ignando oscuro. Ma va via, tosco, omai, ch'ormi diletta troppo di pianger, più che di parlare, sì ma vostra ragion la mente stretta. Noi sapevamo che quell'anime care ci sentivano andar, però tacendo, faceva a noi del cammin confidare. Poi fummo fatti soli procedendo, folgore parve quando l'aere fende, voce che giunse di contra dicendo: «Anciderammi qualunque mi prende!» E fuggio come tuon che si dilegua se subito la nuvola scoscende. Come da lei l'udir nostro ebbe tregua, ed ecco l'altra, con sì gran fracasso che somigliò tonar che tosto segua: «Io sono Aglauro, che divenni sasso!» Ed allor, per istringermi al poeta, indietro feci e non innanzi il passo. Già era l'aura d'ogni parte queta, ed el mi disse: «Quel fu il duro camo che dovria l'uomo tener dentro a sua meta. Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo dell'antico avversario